Andiamo al Puel Mapu, a una situazione, dicevo, più generale, che coinvolge almeno tutta una provincia, parlando dell'amministrazione argentina nella provincia de Chubut. Chubut. Sì, appunto nella provincia del Chubut, che è una delle province più estese della Patagonia. Poi ascolteremo appunto degli audio mandati da una compagna, la Werken, la portavoce dell'off Cagno. E per capire appunto nelle ultime settimane le foreste native, sono boschi nativi secolari, millenari, sono stati appunto colpiti da questi incendi, che, come è stato appena detto, non sono incendi casuali, non sono incendi naturali, ma sono incendi provocati per assecondare un certo tipo di logiche e preparare il terreno in senso lato e in senso reale al suo sfruttamento. Ci abbiamo quindi gli audio di Marilyn, come diceva Giordano, Werken dell'Off in Chubut, che ci parlerà di questi incendi di cui già parlavamo la settimana scorsa. Cominciate il 7 marzo, anche le autorità nazionali argentine parlavano dell'intenzionalità, però certo non parlavano degli interessi delle miniere o delle agenzie immobiliari. In questo primo audio Marilyn Cagno ci presenterà la realtà del Lof Caño e pure ci parlerà della situazione repressiva del popolo mapuche, facendo riferimento sia al Puel Mapu ma anche al Huel Mapu. Andiamo adesso ad ascoltare a Marilyn Werken del Lof Caño in Puel Mapu. Mari Mari Compuche, Mari Mari Capulanguien. Inche Marilyn Cañoni Pingel Mapuche de Inche, Tanilof Chepangi Winkul Barriam al Maiten. Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Cañío, soy mapuche, pertenezco al Lof Caño. Esto está ubicado a 10 kilómetros de la localidad del Maitén, al noroeste de la provincia del Chubut. Mi rol dentro de lo que es la LOF es ser Werken, soy la vocera. En términos generales, el pueblo nación mapuche, dentro de lo que es Huel Mapu y Puel Mapu, es el mismo. O sea, tanto en Huel Mapu como Puel Mapu, la represión y el terrorismo de Estado es muy continuo. Tanto para la represión, para la estigmatización como pueblo-nación, y continua persecución, ya sea encarcelamiento y bala también, son como esa respuesta que tenemos de ambos estados. Llevamos cientos de años defendiendo los territorios, los pocos territorios que nos han dejado. Yo, acá en la comunidad, soy la quinta generación. El territorio argentino no nos reconoce. Del 2010 estamos defendiendo el bosque porque quieren instalar 19 pistas de esquí en lo que es la parte de atrás de la comunidad. Y ese proyecto lo está llevando a cabo el mismo estado, tanto municipal y provincial. Bueno, y así nos amenazan continuamente con lo que es los monocultivos, como la frutilla, más a la costa, más a la meseta, quieren instalar las petroleras, después hay otras comunidades resistiendo contra las hidroeléctricas, las mineras, continuamente están viendo la forma de terminar de matar el territorio y terminar de matar a mi gente. Così ci raccontava Marilyn Werken del Lof Caño, si presentava, non l'avevo detto, scusate, sono quattro audio che andremo ad ascoltare in spagnolo, ma sono brevi, come avete visto e ascoltato, questo durava meno di 2 minuti, in uno spagnolo abbastanza chiaro per, con un po' di pazienza, cercare di capire. Comunque ora cominciamo a commentare ma anche a tradurre. Parlava lei prima, si presentava, faceva riferimento all'essere Werken della comunità, un'autorità, una portavoce. Parlava della stessa repressione, Marilyn, che succede sia nel Huel Mapu che nel Puel Mapu da parte da diversi stati. Esattamente, no? Il discorso è proprio quello, appunto, che se poi storicamente, ad esempio, l'Argentina e il Cile hanno avuto come entità statale, hanno avuto diversi conflitti basati essenzialmente poi sul controllo dei confini, cioè da dire che per quanto riguarda la repressione interna e soprattutto la repressione verso il popolo mapuche, sia dalla parte est che ovest della cordillera, come dicevamo prima, si sono sempre trovati, diciamo, abbastanza d'accordo. Ecco, ricordiamo, ci piace anche ricordare ad esempio il caso di Facundo Uala, quindi di come poi i due stati hanno cooperato per l'estradizione dell'onco del Pulof Cushamen. E appunto si parlava dello stesso tipo di repressione e in questo caso dello stesso tipo anche di dinamiche, che sono quelle degli incendi. E Marilyn si presentava, e quello che credo sia importante e la sua contestualizzazione di questi incendi in dinamiche molto più complesse, in dinamiche anche storiche, dicendo che appunto poi lo Stato argentino ha sempre, diciamo che sia un po', lo Stato argentino si è anche in parte formato sul, sul discorso dell'espansione della frontiera, è un po' una sorta di, diciamo, di destino manifesto argentino, mettiamolo così per dirla con le nostre parole, quindi sul, sul diritto di espandersi verso il sud, verso le terre patagoniche, perché considerate terra nullis, terra di nessuno, non, non abitate da nessun popolo, quando invece non lo erano. E quindi appunto lei contestualizza il problema attuale in un percorso, in un processo storico molto più ampio, e dicendo poi che appunto queste terre usurpate da, prima dallo Stato argentino e poi dalle corporazioni economiche hanno visto comunque delle forme di resistenza da parte del, del suo lof e da tanti altri lof che vivono nel, nel Puelmapu, e dicendo appunto che dal 2010 è comunque in processo, è in, in corso un processo di recupero territoriale, un processo di difesa del territorio. Perché? Perché c'era, diciamo, c'è anche la volontà in quei territori di stabilire degli impianti, come lei ha citato, gli impianti sciistici e più in generale degli impianti turistici, perché poi appunto la Patagonia, insomma, anche da noi ce la vendono un po' come il paradiso turistico, e quindi c'è questa attrazione forte da, da tanti paesi, e quindi ovviamente questo comporta poi appunto anche qui profitto, turismo uguale profitto. E appunto lei diceva, per chiudere in questo audio, come dal 2010 c'è questo processo di difesa del territorio per andare contro alla costruzione di 19 piste da sci, e ora vedremo poi come appunto questi processi di istruzione stanno continuando. Parlava pure del monocoltivo, per esempio della fragola, degli interessi non solo del turismo ma delle miniere, delle petroliere, no? Diversi interessi economici che stanno dietro di queste terre. Andiamo ad ascoltare il secondo audio allora di Marilyn Huerquén del Lof Caño nella provincia di Chubut, nel Puelmapu, che in questo caso ci racconterà o approfondirà sugli interessi dietro questi incendi e anche le conseguenze per i piccoli, no? Produttori agricoli, e ovviamente come le conseguenze non, non esistono, no? Negativamente parlando, per i grandi proprietari della, della terra. Andiamo ad ascoltare di nuovo, pazienza, in uno spagnolo credo molto, molto chiaro, minuto e qualcosa, e dopo si torna per commentare e fare la traduzione. Ora si sta luchando contro questo fuoco capitalista che arrasò con tutta la comarca. Cientos de hectáreas de bosque nativo fueron mutiladas por el fuego, que sabemos que es intencional, sabemos que este es un apriete para meter las mineras, para seguir instalando monocultivos y pistas de esquí, todo lo que tiene que ver con el turismo. Es una forma de, sentimos que es una forma también de expulsarnos de los territorios, empobreciéndonos, ¿no? Nos queman toda la, la parte de vida que hay en los territorios donde nosotros podemos desarrollarnos espiritualmente y también nuestra autonomía, ¿no? Como mapuche, de la crianza de animales, hacer la huerta. Todas esas cosas hoy van a costar mucho recuperarlas porque la ceniza ha consumido todo, el fuego ha consumido todo y ha quedado bajo cenizas. Entendemos que estos incendios son provocados intencionalmente para vaciar los territorios. Così ci raccontava Marilyn Huerquén del Lof Caño nel Puelmapu argentino, parlando dell'intenzionalità prima, denunciando quella, di nuovo ribadendo il concetto degli interessi economici dietro di questa intenzionalità. Però l'altra fascia pure, no? L'altra faccia della moneta, nel senso di quello significa pure cacciarci via dei territori. No, esattamente, appunto, poi la Huerquén metteva, quella una volta metteva in risalto il discorso dell'autonomia, che è la rivendicazione principale del popolo mapuche, sia dalla parte del Puelmapu che del Gulumapu, è quello dell'autonomia, quindi di rivendicare una propria coscienza, che è appunto poi immediatamente una coscienza politica, quindi un controllo politico del territorio, e che va appunto a ridefinirsi nel discorso dell'autonomia delle comunità e dei mapuche come popolo, e di quanto poi questi incendi, mettendo diciamo distruggendo l'ambiente in cui queste comunità vivono, le costringono, diciamo, ad andarsene, ad essere cacciate. E diceva appunto che questi incendi hanno distrutto più di 100 ettari di foreste. E vorrei brevemente ricollegare, perché secondo me questo è molto interessante, è uscito recentemente un articolo che parla appunto degli incendi del Chubut, che potete tra parentesi trovare già tradotto sulla pagina sul blog della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, che insomma consigliamo sempre di andare a vedere, di come E appunto questo sia poi un processo che serve per l'estrazione dei minerali. Perché? Perché ci sono delle regolamentazioni internazionali, statali, provinciali e catastali sulla, appunto sul su quello che riguarda i boschi nativi, quindi sul fatto che non possono essere distrutti né per colture né per legname, eccetera eccetera. Quindi qual è il processo? Se attraverso degli incendi, che sono degli incendi evidentemente dolosi, si distruggono queste foreste, a quel punto poi nasce un processo di legittimazione nell'estrazione dei minerali. E chiudendo per questo, insomma, questa parentesi, sotto le foreste del Kubut sono state trovate immense quantità di minerali preziosi, in particolare di oro. Quindi capiamo, appunto, ricollegandoci al discorso di prima, che la volontà di estrarre questi minerali e dell'oro, diciamo, gli incendi sono l'unico modo effettivamente l'unico modo attraverso il quale effettivamente le imprese possono sfruttare questi territori, perché appunto bypassano, diciamo, quelle che sono le regolamentazioni. Ci parlava Marilyn in questo audio che abbiamo appena ascoltato delle conseguenze. Ora ci parlerà di chi soffre, no? Di cui avevo fatto riferimento poco prima, di chi soffre veramente questi incendi. Andiamo quindi ad ascoltare un'altra volta a Marilyn Werken del Love Caño. Solamente las tierras de pequeños productores y de comunidades mapuches son los que arden. Las multinacionales no. Los territorios que tiene alambrado Benetton, que tiene alambrado Lewy, los territorios que tienen alambrado los hackers árabes, eso no se quema. Se queman solamente las tierras productivas que tienen las comunidades o de que la gente de campo vive. Se han quemado también viviendas de gente que vive de artesanos, artesanas. Todas esas parcelas, esos grandes bosques que teníamos en la comarca andina han quedado todo bajo ceniza. Entendemos que este es un claro apriete, insisto, en meter las mineras. Y ese trabajito lo han tenido todos estos políticos, porque el Estado argentino y los distintos gobiernos están abriendo las puertas a las multinacionales para que vengan a devorar toda la vida de Polmapu. La storia di sempre, no? Sembra, quando accadono questi incendi che alla fine tutti riconoscono come intenzionali, comunque quello che brucia è sempre la terra del contadino, no. Non è mai la terra di Lewis, no? Che ti chiude un lago, non è mai la terra di Benetton, non è mai la terra dei sceicchi arabi in Argentina, è sempre la terra del contadino, dell'artigiano, di colui che lavora, che prende cura veramente della terra, e in quel prendere cura, di una forma molto particolare, con una politica molto consapevole, si confronta con questi grandi interessi, no? Casualità. Chiaro, sì, è come, appunto, come ha sottolineato ancora una volta, se ce n'era bisogno effettivamente, Marilyn, è quello che le piccole parti di territorio, di bosco, che poi prendono piccole nel senso che poi confrontate con la grandezza della Patagonia e con la grandezza del latifondo di tante imprese, ricordiamo che Benetton lì possiede circa 1 milione di ettari, non proprio della parte del Chubut e anche della provincia del Rio Grande, Rio Negro e Santa Cruz, sicuramente. E appunto che questi incendi poi guarda caso non colpiscono mai questi latifondi, ma colpiscono sempre le comunità, i lavoratori, i campesinos, eccetera eccetera. E l'ultimo punto che vorrei sottolineare è quando alla fine la Werken dice che questi sono processi portati avanti da differenti governi, quindi attualmente, anche se c'era stata un po' quella narrazione di inversione di rotta con l'arrivo del governo Fernandez rispetto al neoliberista Macri, eccetera eccetera, vediamo che poi effettivamente spesso sono politiche di facciata, ma da un punto di vista reale c'è un continuum di queste politiche, quindi non c'è non c'è mai stato effettivamente un grande cambio tra il governo attuale e quello precedente. Sì, alla fine Marilyn pure denuncia dietro dell'intenzionalità nell'intenzionalità di questi incendi una forma di far pressione da parte dell'interesse, soprattutto delle miniere. Andiamo ad ascoltare l'ultimo audio per chiudere, un audio interessante perché ci racconterà di un'esperienza che si chiama il Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, che si stanno organizzando per un incontro il 25 maggio. In quel caso, o in questo caso, ci parlerà Marilyn pure della marcia che stavano portando avanti las mujeres indígenas, le donne indigene, per andare a Buenos Aires in quello che è la marcia che ancora si fa in momenti di pandemia per il 24 marzo, la commemorazione del colpo di Stato civile, militare, religioso e anche economico. E quindi sarà interessante ascoltare, perché ci racconterà un po' di questa esperienza delle donne indigene che si stanno organizzando. Andiamo ad ascoltare quindi per l'ultima volta a Marilyn Werken del Lof Caño. Yo pertenezco al movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Habemos mujeres indígenas de las 36 naciones indígenas que todavía habitamos con nuestras lenguas vivas lo que hoy llaman Argentina. Esto es en el norte y en el sur. Justamente en estos momentos se está llevando a cabo una gran marcha camino a la Futagua Ría de todos los distintos territorios. Se está caminando hacia Buenos Aires para hacer un llamado mundial y decir basta de terricidio, que dejen de matar nuestros bosques, que dejen de contaminarnos. Queremos que la vida siga fluyendo en su totalidad, tanto el bosque, el agua, la montaña, los cerros, los trayencos, las cascadas. Entonces nos vamos a reunir el 25 de mayo para hacer una convocatoria a llamar a la reflexión al mundo entero, porque esto es un genocidio y un etnocidio lo que siguen haciendo con nuestra gente. Así que también para que estén ahí atentes a esta gran marcha que se está llevando, que están llevando mujeres de los distintos territorios, dado que nosotros somos la primera línea, los más afectados siempre cada vez que llegan las multinacionales, los monocultivos, todo lo que tiene que ver con el turismo, porque llegan directamente a contaminarnos y a matarnos. Questo era l'ultimo intervento, l'ultima testimonianza di Marilyn Werken del Lof Caño, nella provincia di Chubut, Argentina, nel Puelmapu. Ci raccontava dell'esperienza del movimento, no, delle donne indigene, 36 nazioni indigene in quello che è tuttora lo Stato argentino, che si incontrano, che fanno parte di questo movimento e che già hanno cominciato a organizzarsi, a marciare per il 25 maggio, un incontro che sarà molto molto importante. No, sì, ecco, brevemente per dire che poi con l'audio finale c'è anche poi quella volontà di rilancio, nel senso di che ci ha descritto e ci ha detto quelle che sono le dinamiche che stanno avvenendo lì, ci ha descritto appunto poi quali sono le conseguenze per il territorio e per le comunità, però dall'altra parte il senso non è chiaramente un modo tra virgolette passivo di affrontare la questione, ma c'è un rilancio dicendo comunque i popoli e i territori si stanno organizzando, auto-organizzando e sono in marcia, e lo saranno a maggior ragione visto quelle che poi sono i risvolti anche attuali di questi incendi e di tante altre forme di sfruttamento e devastazione. Quindi appunto anche un po' un richiamo generale a dire, nel senso, non lasciamoci sconfiggere da quello che sta avvenendo, ma affrontiamolo con questo panorama direi più che ampio, interessante, di ciò che già avevamo parlato la settimana scorsa riferito agli incendi nella provincia di Chubut. In questo caso abbiamo approfondito parlando le conseguenze per il popolo Mapuche nel Puelmapu. Chiudiamo il contenuto, direi, siamo arrivati alle 18.